il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Un paio di settimane fa al Quadrifoglio abbiamo parlato di impronta ecologica, ovvero del costo in termini di risorse ambientali che comporta la realizzazione di qualsiasi cosa, sia essa la semplice coltivazione di un prodotto agricolo, come l'intero processo che dalla lavorazione delle materie prime conduce a un prodotto finale. Vogliamo oggi tornare su questo argomento con un esempio concreto, quello della pasta. Abbiamo quindi invitato in trasmissione Pierantonio Sgambaro, direttore generale dell'azienda Jolly Sgambaro di Castel di Godego in provincia di Treviso. Benvenuto intanto Pierantonio. Buongiorno a voi, ecco, e ai vostri ascoltatori. Grazie. L'azienda, la Jolly Sgambaro, c'è anche stata segnalata in realtà, oltre come fiera all'occhiello dell'industria venete, proprio per l'attenzione che pone agli aspetti connessi alla produzione della pasta. Quello che vorremmo sapere, prima di fare magari anche qualche domanda su come scegliere una pasta di qualità, è come riesce un'azienda come la vostra a tenere sotto controllo anche gli aspetti etici ambientali. Cioè, questo controllo comporta costi di produzione aggiuntivi, oppure, non so, nel rapporto costi-benefici vale la spesa impegnarsi anche sotto l'aspetto etico-ambientale? Beh, allora, dobbiamo iniziare per comprendere se ci crediamo noi per primi ad essere ecocompatibili, cioè come imprenditori, cioè dobbiamo capire se lo vogliamo noi, quindi non darci una pittura di verde, ma esserlo prima di tutto. E la cosa bella della nostra azienda è che lo siamo stati per primi già da molti anni, stiamo lavorando su un grano che sia vicino all'azienda, quindi percorrere pochi chilometri, e questo ci ha portato a lavorare sia per la qualità intrinseca del prodotto, ma soprattutto anche per dare un beneficio all'ambiente, per creare un qualcosa che sia bello e che piace a noi. L'idea di avere, di studiare anche l'impronta ambientale, cioè cosa noi pesiamo, cosa l'azienda consuma come ambiente, è stata poi la bella cosa finale, è stata la chicca, la ciliegina sulla torta per dire noi consumiamo questa quantità di ambiente per ogni chilo di pasta. E quindi riuscite anche prodotto. Poi siete riusciti a intervenire magari per limitare un po' questo consumo dove vedevate che c'era uno squilibrio? A dire il vero, l'abbiamo fatto prima, cioè noi abbiamo fatto tutte le operazioni senza pensare di arrivare un domani a quantificare, ma perché ci andava di farlo, cioè il fatto di usare energia prettamente idroelettrica, il fatto di avere il mulino vicino al pastificio, coltivare il grano diciamo a distanze molto corte, molto, molto brevi, grano e azienda, è stata un'operazione che abbiamo fatto prima, per cui l'idea di calcolare poi l'impronta per capire ma quanto bene abbiamo fatto, quante belle cose, oppure dobbiamo fare ancora qualcosa. La sorpresa è che effettivamente la nostra impronta, verificandola con altri concorrenti, è molto molto leggera, parliamo del 40-50% più leggera ad industrie molto simili a noi. E questo nel vostro caso comporta anche, credo, dei risparmi economici, visto che parliamo di mulino vicino all'azienda, o no? Diciamo che, per dire, un'energia idroelettrica mi costa di più. Certo. Produrre vicino a casa, ma produrre alta qualità, significa dare dei premi molto alti, per dire, non comprare grano estero a basso costo, ma comprarne grano italiano e vicino, pagando poi dei premi, dei sovrapprezzi per la qualità, quindi non è vero che mi costa meno, anzi mi costa di più, ma sono molto più contento di farlo, è un prodotto che ci dà sicuramente dei risultati. E riuscite poi a essere nel prezzo finale concorrenziali, nel rapporto anche qualità-prezzo con altre aziende? Sicuramente sì, è un prodotto ad altissimo livello, venduto a un prezzo giusto, venduto a un prezzo abbordabile a qualsiasi persona. Non ho mai voluto pensare di vendere qualcosa di inavvicinabile o per l'elite, anzi per la massa, un prodotto eccezionale però alla portata di tutti. Voi avete una linea di pasta appunto definita a chilometri zero, abbiamo detto di grano non troppo lontano dall'azienda, e anche puntate molto sulla pasta bio. C'è un mercato anche in crescita per queste tipologie di prodotti? E poi anche cosa significa realmente una pasta a chilometri zero? Cioè, non è che il grano ci sia sotto casa come l'agricoltore che vende al mercatino vicino a casa? Sicuramente non sono sotto casa, ma lei calcoli che i 150 chilometri massimi che percorre il nostro grano sono su una scala da 1 a 10.000 chilometri, calcolando un grano proveniente da oltreoceano, è uno zero, cioè è talmente vicina che si può benissimo dire, tra virgolette, si può benissimo appellare come chilometro zero. Quindi voi vi confrontate con aziende che producono pasta con grano che arriva da molto da distante. Tutto mondo, quindi, da tutto il mondo. E quindi chilometri zero rispetto, ovviamente, rispetto a alle questo, migliaia ecco. di chilometri sì, di altre aziende. E per quanto riguarda il biologico? Il biologico noi ci crediamo soprattutto per quei prodotti un po' particolari come il farro, per esempio ultimamente stiamo spingendo una bella linea di pasta al farro, che è un grano prettamente italiano, bio, molto rustico e sembra molto molto digeribile e apprezzato da un pubblico sensibile. Ecco, allora ci fermiamo di pasta per qualche minuto e torniamo proprio per parlare di farro tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Un passo me ne vado per sempre, un passo grande, un passo così importante. Due passi senza guardarti, due passi avanti, due passi per dimenticarti. Tre passi verso le stelle, fino a toccarle, tre passi per avvicinarle. Quando tornerai? No, che non tornerò. Quando tornerai? Lontano da qui sarò. Quando tornerai? Un giorno, forse mai. Quando tornerai? Ho fatto un passo. Quando ormai tornerai? Così lontani. Quando sai tornerai? Un giorno, forse mai. Quattro passi voglio ricordarti, rivedo i nostri sguardi. Quattro passi, forse è già tardi. Cinque passi senza cadere, continuo a camminare. Cinque passi per perdonare. Mille passi senza voltarmi, non voglio più contarli. Mille passi per guardare avanti. Quando tornerai? No, che non tornerò. Quando tornerai? Lontano da qui sarò. Quando tornerai? Un giorno, forse mai. Quando tornerai? Un passo via da quando noi. Quando tornerai? Siamo lontani ormai. Quando tornerai? Un giorno, forse mai. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di impronta ecologica, in particolar modo legata alla realizzazione della pasta, ne stiamo parlando con Pier Antonio Sgambaro dell'azienda Jolly Sgambaro. E ci siamo lasciati qualche minuto fa parlando di farro. Cosa distingue una pasta di farro da una di grano normale? Cioè, qual è anche a livello di gusto? Visivo? Beh, di gusto ha un gusto un po' più marcato di farinace, un gusto piacevole se non troppo forte. Noi cerchiamo di produrla con un gusto non troppo forte, selezioniamo dei tipi di grano di farro con agricoltori da noi scelti che ci diano questa prerogativa. Quindi una pasta che sia rustica, particolare, ma non così distante dalla pasta tradizionale, è un po' più grezza, un po' più integrale, è molto digeribile. Il fatto che sia una genetica antica gli dà dei valori nutrizionali superiori alla normale pasta convenzionale, per di più coltivata bio, quindi senza concimi chimici o agricoltura intensiva. C'è una richiesta anche di questo tipo di prodotti? Oppure sono nicchie ancora? Ma possiamo dire che siamo partiti con così per gioco, non per gioco, ma per volontà, per voglia di fare sempre qualcosa di nuovo e di bello, e ci sta dando delle proiezioni di aumenti del 100% all'anno, vuol dire che un certo pubblico la sta apprezzando. I costi quindi sono anche abbordabili anche in questo caso? I costi sono abbordabili anche se una pasta che può costare più del doppio della convenzionale, comunque parliamo sempre di centesimi a etto, ogni piatto può costare un 10 centesimi in più, quindi sempre poche cose, però paragonandola alla tradizionale costa sicuramente il doppio, più del doppio. Vi è qualche altro cereale dal quale ci possiamo aspettare sorprese sempre nella pasta fra qualche anno? Cioè, state studiando qualche, magari per gioco, come diceva, anche qualche altro? Per gioco, per voglia di fare bene. Di sperimentare qualche altro prodotto nuovo? Sì. No, sto lavorando molto su questo farro, proprio su fari, diciamo, più selezionati. Cioè, grani ancora più adatti alla pastificazione. Poi abbiamo nella nostra linea il Camut, che è un grano che sta dando soddisfazione, sempre grani antichi, grani che provengono dalla Mesopotamia, quindi sempre genetiche mai modificate. Ecco, per concludere un'ultima domanda: come possiamo scegliere una buona pasta? O meglio, con due pacchi di pasta in mano, dall'etichetta riusciamo a capire, leggendo, che cosa dobbiamo leggere per capire in che tipo di prodotto ci troviamo di fronte? Diciamo che visivamente si fa fatica, perché la pasta può avere colori più o meno chiari, può essere, io direi sempre, leggete, non so, trafilata al bronzo, che è la prerogativa per avere una pasta che assorbe bene il sugo, essiccata lentamente, vuol dire temperature di essiccazione piuttosto basse, quindi una lunga essiccazione lenta, questa mantiene il sapore e l'elasticità della pasta, per cui è una pasta sicuramente rispettata nei suoi valori sia nutrizionali che di gusto, e sicuramente se poi riusciamo a rintracciare da dove proviene il grano, meglio ancora. Ecco, noi siamo uno tra i pochi, siamo stati il primo pastificio in Italia, adesso siamo uno tra i pochi che descrivono chiaramente da dove proviene il grano, in questo caso grano italiano. Grano 100% italiano. Sì, sicuramente. Bene, grazie allora a Pier Antonio Sgambaro per questi consigli e anche poi per la pasta che riuscite a portarci sui nostri piatti. Grazie. Grazie a voi. Buongiorno. Buongiorno. Passiamo adesso ad alcune notizie. Ritorna la primavera del Prosecco Superiore, la rassegna enoturistica che porta ogni anno oltre 180.000 persone a visitare la zona di produzione del Conegliano Valdobbiadene di OCG, dove si tengono 15 mostre del vino in circa 4 mesi. Per celebrare al meglio il traguardo dei 18 anni di rassegna sono state create numerose iniziative. Ad esempio, per le famiglie e gli amanti delle tranquille pedalate all'aria aperta saranno numerose le biciclettate tra borghi e vigneti. Il 28 aprile a Refrontolo ci sarà poi la marcia del Refrontolo Passito. Il 21 aprile è la volta di Tarzeggiando, passeggiate gastronomiche nella zona di Tarso. Il 5 maggio a Combai, Sbeccotando, passeggiata tra i boschi di castagno e vigneti. Il 26 maggio Rive Vive, passeggiata enologica a Fara di Soligo. Il 30 giugno Canevando, celebre scampagnata nella zona di Valdobbiadene. Giunge infine alla terza edizione concorso fotografico Scatta la primavera del Prosecco, dove per partecipare è sufficiente iscriversi nella sezione del sito ufficiale. Il carciofo violetto veneto e l'asparago verde amaro montine sono entrati a fare parte dell'archivio del gusto di Veneto Agricoltura, unendosi così ad alcune specie frutticole e cerealicole e a vecchi vitigni veneti autoctoni. Tutte le specie sono state selezionate per salvaguardare la tipicità e prevenirne l'estinzione. La Regione Veneto ha istituito infatti due campi sperimentali di studio e conservazione a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia e nell'isola di Sant'Erasmo, mentre il centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana è incaricato di raccogliere e custodire il germoplasma delle due varietà. L'agroalimentare italiano è sempre più terra di conquista straniera. Negli ultimi anni, infatti, sono passati oltre confine marchi storici del nostro paese, come la Parmalat, la Bertolli, la Buitoni, la Perugina, la Galbani e la Caramelli. Si rafforza, soprattutto a causa della difficile congiuntura che sta vivendo il nostro sistema economico produttivo, l'azione aggressiva di gruppi esteri che puntano ad acquisire patrimoni industriali, tecnologici e scientifici nazionali, nonché marchi storici. Lo afferma il presidente di CIA Padova, Claudio Dascanio, commentando la relazione fatta in Parlamento dai servizi segreti sull'assalto delle multinazionali a un Made in Italy che si impoverisce sempre di più, visto che ormai le multinazionali controllano oltre il 70% dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole. Non vogliamo essere tacciati di nazionalismo o essere protezionisti, afferma Dascanio, ma non si può permettere che il Made in Italy agroalimentare finisca totalmente in mani estere. Ecco perché insistiamo sull'esigenza di un serio e concreto intervento che impedisca scalate attraverso le quali si rischia di mettere sotto controllo un comparto fondamentale per il nostro sistema economico, che, oltre a determinare una spesa complessiva che supera i 210 miliardi di euro l'anno, registra un export che si avvicina ai 30 miliardi di euro. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.